Eccoci, puntualissimi. Aspetta, aspetta, se è solo chiacchiere distintivo, chiacchiere di... non è solo chiacchiere distintivo, se è solo chiacchiere distintivo. Ve la facciamo pure live. Facciamo pure live. 23:07 minuti primi. Un po' in ritardo. Stiamo qui acchittandoci un po' la trasmissione di questa sera. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. E siete all'ascolto di 25 O'Clock. Oltre al sottoscritto, il buon professore. Buonasera, professore. Sera. Ed andiamo a ricordare i contatti della radio. E quindi il sito della radio raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati con le notizie, i podcast delle trasmissioni e le varie corrispondenze. Attraverso il sito della radio potete sostenere questo progetto libero dal 1977. E quindi andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati alla pagina di PayPal. PayPal si dice? Paul. O PayPal. Pal. Radio che potete sostenere anche attraverso lo storico conto corrente postale della radio. Al 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. Oh sì. Ma non ho capito perché stasera mi tocca fare il ruolo del controcanto, insomma, stupido peraltro. Vabbè, dai. Perché non ti trovi a tuo agio? Assolutamente. Sono calato proprio nei panni. Dai, aspetta, però la vogliamo dire. Allora, già venerdì presentazione di Scarceranda in quel del Lucernario occupato. La serata della sfida. Ci saremo? Più o meno, sì. Ci saremo. Ci saremo. Io non lo so se sarò. Ai voi, io ci sarò. Ai voi, il fantasma ci sarà. Invece mercoledì prossimo alta presentazione di Scarceranda al Forte Prenestino, lo possiamo già dire fin da ora. Trasmetteremo direttamente al Forte Prenestino con altri compagni che vengono da una radio, web radio, uh-huh, e che condivideranno lo spazio più o meno nella fascia oraria che ci contraddistingue. E quindi 25 O'Clock live dal Forte Prenestino. E ricordiamo il telefono della radio, che è lo 06 49 1750. E quindi fatevi sentire. Le ricordiamo pure le email di trasmissione. E quindi 25 o'clock@ondarossa.info o fantasma@ondarossa.info. Offendeteci pure liberamente. sono fatte apposta, servono a ciò le mail. E lo vogliamo dire stasera, quindi, se già non l'avevi detto, non l'avevi mica dobbiamo svelare. Me l'ero stasera dimenticato. Stasera ospiti saranno con noi fra pochissimo. Già qua veramente, però gli dobbiamo passare il microfono, tutto là. E ci sono venuti a trovare i Mefitica. Buonasera Mefitica. E cominciamo... Buonasera. Ah, ce l'hanno il microfono. Ce l'hanno, sono microfonati. Cominciamo un giro di presentazioni. Che ci abbiamo qui dei Mefitica? Tutti e tre. Io sono Pam, chitarra e voce. Sono Gianluca alla batteria. Antonio al basso e voce. E vai. Mefitica, da dove? Da dove giungete? Allora, io sono di Colleferro e loro sono di Carpineto Romano. Che tempo fa ci abbiamo avuto già da Colleferro qui ospiti i Placcaggio Hardcore. Grande Placcaggio. Quindi portate avanti anche voi il culto del black metal di Colleferro. Certo. Eh sì, ci dicevamo appunto che con le Ferrot, la nota capitale black metal laziale, insomma, vabbè. E sulle note degli Slayer. Ci sembra giusto leggere qualcosa dei Mefitica. Quindi iniziamo con una presentazione da loro scritta. E quindi dall'inverno del 2012, dalla riesumazione di due quarti degli Adirata, con l'aggiunta di un terzo componente, nascono i Mefitica, influenzati dal marcio che regna in questa società. Dalla morte dell'anima causata dal disagio quotidiano, dall'ira, dallo sfruttamento sul lavoro, dall'hard core anni 80 italiano, dal non è giusto che sia così, credono che questa musica sia una reazione non indifferente alla sopravvivenza e percorrono le strade che riportano al crust punk, deviando inevitabilmente verso sonorità cupe, quasi black metal, sfiorando anche un po' quello sporco che sta di grindcore. Le parole pesano come macigni e narrano di questa vita oggi come ieri. Sono a tratti visionarie, metafore di catastrofi interiori, tutto il resto è solo odio, e nausea e odio, e nausea e odio, e nausea. E quindi, niente, queste parole le vogliamo approfondire, Pamela? Allora... Io e il batterista appunto siamo due quarti degli Adirata, che era la band che avevamo nel 2007, ci siamo formati, poi ci siamo sciolti nel 2009, abbiamo registrato la demo al Puzzo Nice Home e poi ci siamo sciolti nel 2010, sì. E poi dopo due anni io sono rientrata in sala con Gianluca, che avevo dei pezzi hardcore, e poi ho contattato Antonio, che già mi aveva chiesto da tempo di fare un gruppo, e niente, poi è nato tutto così. Ma ce l'abbiamo qualcosa di Adirata da mandare? Sì. Ce la facciamo? Empatia. We'll be right back. vabbè, un po' troncata così, insomma. Insomma, empatia, Pamela? Ci sei? Sì. Problemi tecnici col microfono. Vabbè. È precario come un po' tutti quanti. Senti, questo testo l'hai scritto te? Sì, sì, io lì ero soltanto la voce, però alla chitarra c'era Rix e al basso Erpecora, che suona anche con il Loud Rising. Ma no, io volevo, siccome una parola, empatia, che mi stava ritornando proprio questi giorni. No? No, ero curioso il perché di un testo sull'empatia. Empatia con cosa? Faccio le domande alla Marzullo. Però può anche non rispondere, è bello pure che mi lasci così. Vabbè, puoi improvvisare, puoi dire qualsiasi cosa. Vabbè, empatia, senso di comprensione, cioè. Con cosa? Vabbè, ma è giusto pure lasciare l'immaginazione, dai. Timiducci sti ragazzi, eh? Quindi dal salto nel passato con gli Adirara parliamo un po' del presente. E quindi questo demo, l'ultimo dei Mefitica, dalla triade sotterranea. Sì. La triade sotterranea perché appunto tre testi li ho scritti io e tre testi il bassista. E i tre testi che ho scritto io sono presi appunto dalla triade sotterranea dei miei Necropoems, di cui c'è anche la pagina su Facebook. No, parlaci di tuoi Necropoems. Sì, vabbè, li ho chiamati così io. Sono testi abbastanza crudi, diciamo. Cioè, necro proprio, necrotici? Necro di morte. Di morte, parlano bene, molto bene. Spesso di morte, comunque. Però mi dicevi che, insomma, durante i vostri concerti usate leggere qualcosa, ce lo vuoi far sentire, Pamela? Sì, si intitola appunto Mefitica ed è una poesia che racchiude più o meno il nostro discorso, il messaggio che vogliamo mandare. Inestetismi isterici, confusione e disagio cronici, generali, quotidiani, problemi non problemi, invenzioni meccaniche, costretti dentro a involucri solo perché pratici. Questo non è vero cibo per la mente. Sfruttati, sottopagati, umiliati, lavoro, morte dell'io. Innocenti mutilati della propria dignità da guardie infami, schiavi di malate convinzioni. Stagnare, tremare, desistere, rinsavire, smettere di esistere. Catastrofi più grandi di noi. Da troppo tempo non cresce più erba dove pisciano gli umani. Irradiali di luce propria, diversificali dalla massa. Sarai sempre uno, uguale, poco noto, fetido, sconnesso. Buca, trascina, ispeziona, mescola. Tutto è inutile e sopravvivi a una mefitica vita che non ti appartiene. E noi a Cannone ci ascoltiamo la prima traccia della triade sotterranea, che è Gas Mefitico. Questo era Gas Mefitica. E ci volevi leggere il testo, Pamela? Sì. Radice arida su spermi secchi, ovuli impastati su dita rotte. Sentire le tue grida è un incanto. La tua scorta di fedi sta per estinguersi. L'ematoma è la sola cosa che ti resta. Gas mefitico nell'aria, sei tu che lo emani, tu che lo respiri. Una piccola fessura fa penetrare una striscia fastidiosa di luce. Alzi lo sguardo, sei nella fossa, ma non hai più ossa nei piedi. Praticamente scopre di essere morto, di stare proprio sottoterra. C'è chi non se ne accorge, appunto. Quindi negro hardcore, a parte il gusto per l'orrido che traspare dai testi, è proprio un riconoscere il marcio nel reale, no? Sì. E, demo registrato quest'anno? Sì, a giugno, però vabbè, poi alla fine è uscito a giugno perché ci abbiamo messo un po'. Registrato, mixato e masterizzato da Alessandro Polini, che lo salutiamo. Salutiamo anche chi ci ha aiutato ai cori: Millo, Nervo, Bob, Tiziana e Trebbia. E Microzze, che appunto ci ha fatto il lavoro del fronte copertina. Vabbè, molto stile dalla radio non si vede, però insomma è molto Dylan Dog, no? Sì, noi tre diciamo sotto forma di zombie che usciamo dalla terra dalla triade sotterranea, appunto. I primi marci siete voi. Sì. Mi fidica che si stanno muovendo in giro, lì avete visti, io mancavo. Li avete visti in quel di Marino, in quel dell'Ipo di Marino. Insomma, mi dicevate, concertone è riuscito bene. Sì, siamo abbastanza soddisfatti della bene, performance. Bene. Spero di vedervi presto dal vivo. Lo speriamo anche noi. Concerti prossimi qua in giro? Prossimi per adesso abbiamo 25 gennaio al Sottoscala 9 di Latina con Dr. Gor, Tu Kulka, e Kate e Diorrea. E poi 8 febbraio a Morolo, allo studio, al VDSS Studio Records, con una serata proprio necro hardcore contro stoner. Ah, un bel mix, insomma. Con i Godbat. Con i Godbat, da paura. E poi stiamo aspettando, diciamo, c'è un benefit che devono fare nella facoltà di lettere di Tor Vergata, dove ci hanno invitato, però si farà, diciamo, fine febbraio. Il retrocopertina invece è una foto che proviene dalla baracca dei fratelli Macera, dove noi quest'anno abbiamo organizzato il Macera Fest, che è stata appunto la prima edizione di questo festival, e speriamo di ripeterla l'anno prossimo, migliorando magari. Che cos'era? Una due giorni? No, abbiamo fatto tutta una giornata, è stata veramente un'ammazzata, quindi volevamo, diciamo, dividerla anche in due o tre giorni. I gruppi sono parecchi, quindi stiamo cercando di organizzarla per almeno due giorni. È una cosa che avete fatto agosto? Se sì, mi ricordo. Sì, era la fine d'agosto. Fine di agosto. Sì. Quindi poi svacco totale, tende, insomma. Sì, no? Sì, poi sì, c'è posto comunque. Proprio in montagna, sperduti. Ma dove? No. Carpineto Romano. Carpineto Romano. Sì. Perché è troppo tranquillo Carpineto Romano. Bellissimo paese, io adoro. Aria pulita. Vabbè, ci sono cresciuta, quindi è un pezzo di cuore. Come il marcio lo portate voi, no? Sì. Sempre dalla triade sotterranea, questa era Suicidio, vero Antonio? Sì, il latino Suicidium. E ci volevi leggere il testo? Sì, Allora, le lancette ferme, il sangue dappertutto, la tua misera vita è arrivata al capolinea, nemmeno quello sforzo di fotterli per sempre, la vera fine non avrà mai inizio, non sarai mai ricordato per questo. Il mondo è marcio, è un incesto tra diavoli arrapati, è autodistruzione alla soluzione, come riscatto ai tuoi incessanti desideri, alla tua vita fallita, priva di reazione. Non sarai mai ricordato per questo. Le tue cervelle esplose sui mefitici brandelli che decorano al buio materiali lisci. La stanza intorno allo sfonzo di un coito interrotto. Ora non sei più schiavo di chi non sarà mai libero. Di ogni memoria. Dai, vabbè, tanto il demo ce lo ascolteremo tutto nel corso della trasmissione. Però intermezziamo un po' con una scritta preparata dai Mefitica. Che ci ascoltiamo, Pamela? Un gruppo ormai defunto, un quarto morto, sempre per rimanere in tema di morte. Nefandezza il pezzo. Vamos. Democrazia stonk. La democrazia fa schifo. Liberty stonk. La libertà fa schifo. Free spreken stonk. La libertà di parola fa schifo. Un quarto morto, quindi, dicevamo, band marchigiana, e alcuni di loro sono a Nonne di Orrea, che sono tuttora attivi. Se vogliamo ascoltarci un pezzo di Orrea? Sì, malessere perpetuo, urlo per non sentirmi male, urlo col fiato che mi sale, col sangue che mi sale. Vai, di Orrea. Di Orrea. E questa era la legnata di Orrea. Dicevi di Orrea, di dove? Sempre marchigiani. Sempre marchigiani, che vedremo dal vivo insieme a voi. Sì, a... 25 gennaio al Sotto Scala 9. Ok, ma vogliamo parlare un po'? Sì, vi volevo chiedere. Eccolo. No, devo mettere i Slayer di sottofondo, se no. Secondo voi, cioè, suona quando parto così vedo il volto di terrore nei Mefitica. Mi piace generare il terrore nei Mefitica. No, mi chiedevo se il fatto di proporre questi gruppi, queste sonorità, diciamo la vostra attinenza sonora con questi gruppi significa anche qualcos'altro? Non so, cioè sentite un'unità della scena? Beh, la scena va supportata, però purtroppo non credo ci siano molte persone che supportino realmente. Cioè, io quando vado ai concerti cerco sempre, quando posso, di comprare un vinile, di comprare una maglietta, un CD. E se tutti lo facessero sarebbe molto più facile andare avanti, farsi conoscere. Quindi a me piace, ecco, magari mandare un pezzo dei Diorrea piuttosto che un pezzo degli Slayer, che magari sono famosissimi. Certo, certo. E vabbè, noi nel frattempo ci prepariamo magari un altro pezzo e mandiamo i famosissimi Slayer. Beh, noi gli Slayer li sfregiamo. Basta Slayer. Basta. Che c'hanno da dire Slayer? Basta. Hanno rotto a caccia. Basta. E con chi sfregiamo gli Slayer? Con i Nile. Che c'è molto meglio. Gruppo molto di meglio. Sì. Ci salutiamo. Che abbiamo visto recentemente ieri sera, no, io l'avevo visti che hanno aperto assieme a Ye Gate, Vibrata Core, e Mutant Safari e Buffalo Grills, immancabili. A chi hanno aperto? Vediamo se sei oddio hai Brutal Truth. Esatto. Io li avevo visti in quel del Belci Venga al GoFest. Sì. Andiamo un sono un fan dei Neid, quindi ce li ascoltiamo. Che ci sentiamo? Un pezzo dal loro ultimo disco, Non ripetere, essere editas. L'egoista. Vai. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi. mai avere nulla più di quanto oggi ho. Fino alla morte. Fino alla morte. Fino alla morte. Va bene, nel frattempo ho tolto il sottofondo degli Slayer. Vabbè, un altro gruppo famosissimo. Celtic Frost vanno bene? Mefitica? Ma sì, sì. Ma sì. Possono andare bene. Ma. Andabili. Andabili. Vabbè, ci abbiamo pronto qualcos'altro? Beh, c'è un gruppo che, diciamo, gli Gate, che ieri hanno aperto il Blue tutte, che sono praticamente usciti adesso, con il CD... Loro dalla zona Pontina? Loro dalla zona Pontina, sì. Sabaudia Latina. Sabaudia Latina. Il pezzo si chiama Indignati. Vai! Quindi ci siamo ascoltati gli Kate, un'altra proposta dalla scaletta che hanno preparato i Mefitica, che si stanno così raccontando anche attraverso queste selezioni. Terrore, il terrore delle domande. No, mi incuriosiva, insomma, sapere come siete arrivati al vostro sound. Veramente ancora dobbiamo farci dei veri suoni, però è uscito comunque molto cupo e siamo contenti. Cioè, avete iniziato da subito ascoltando hardcore, oppure siamo entrati in sala e abbiamo iniziato a suonare naturale. È il marcio che parla. Che caldo in questi studi. 23.47, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza. E questo è 25 o'clock. Ospiti in studio in Mefitica. E i miei figli che continuano a raccontarsi attraverso i pezzi che hanno scelto. Che ci abbiamo in forno? Ma passiamo i Male Misandria, che è un gruppo che mi ha colpito particolarmente e che ho scoperto da poco. Mm-hmm. La canzone si chiama Dio. Oh. Vai per Dio. Questi erano in Male Misandria. Sì. Da zona nord Italia. Sì, no, del nord. Beh, sì. belli massicci, belli ignoranti. Li adoro. Tempo fa ho collaborato con i Palcoscenico al Neon. Ah. Alla voce, abbiamo fatto qualche concertino insieme. Quindi. Vogliamo mandare un pezzo? Dei Palcoscenico? Sì. A voglia. Lucas, che è il mio preferito proprio. Benissimo. Palcoscenico al Neon, Radio Onda Rossa. insomma, selezione dei Mifitica, palcoscenica il Neon, che sono di casa qui a Radio Onda Rossa. Un salutone a Ciccio. Quanto è piccolo il mondo, Pamela? Ci siamo incontrati per caso e poi Ciccio mi ha fatto sta proposta di venire a cantare. Sono andata. Quindi ci sono dei pezzi pronti? No? Ci sono dei pezzi pronti? Dopo. No, ok. Quindi sei andato a cantare con... Sì, ma non abbiamo registrato. Ah, non avete registrato, ok, delle ok. Collaborazioni nei live, così. Mm-hmm. Duettiamo. Comunque sì, Ciccio fa tutte, le fa a tutte queste proposte, vero sì, Ciccio? Fa le proposte indecenti, Ciccio. Salutiamo pure Lorenzo e pure tutti gli altri. Eppure il Davidino che insomma, vabbè. Quindi i Mefitica richiedevano un ritorno al grind. E che ci abbiamo pronto? Beh, dato che ieri i Buffalo Grills hanno aperto ai Brutal Truth, mandiamo un pezzo. E a proposito di Buffalo Grills, ricordiamo un paio d'anni fa, qua a Radio Onda Rossa, è venuto Cinghio. Abbiamo fatto le tre de notte. Abbiamo fatto le tre e mezza. Però a mangiare coppiette. Lui sì, io purtroppo no. Beh, essendo fantasma non mangio. Cinghio è venuto qua negli studi di Radio Onda Rossa, ma non per parlare dei Buffalo Grills. Era one man show. Io ho parlato veramente di tutto lo scibile umano. Veramente enciclopedico. Quindi un abbraccione a Cinghio. Che ci ascoltiamo dei Buffalo Grills? Forest Grind. Forest Grind. Corri Forest, corri. Ok. Insomma, ci siamo ascoltati i Buffalo Grills, gruppo atipico del grind, perché insomma storicamente il grind è sempre stata la musica di protesta, testi impegnati politicamente. I Buffalo Grills no, non hanno testi. I testi dei Buffalo Grills sono i deliri di Cinghio, probabilmente. Sì. E vabbè, quindi dalla capitale dei Buffalo Grills ci spostiamo in Emilia Romagna. Sì, che diciamo durante la continua ricerca di gruppi che mi piacessero, ci sono i Mucolords, che è un gruppo che adesso non suona più. Mucolords. E questa I signori del muco. chiama Mangia Cadaver. Yeah. E è un featuring con Franz delle Sorelle Pestilenza, che poi ci andiamo a ascoltare. Ah, voglia. Che è un gruppo anche tutti i gruppi defunti, purtroppo. Quindi Muculo. Vabbè, per rimanere in tema negro, ci ascoltiamo dei gruppi defunti. Bene. Mangia Cadaver. Muculors. E questi erano i Muculords. E alcuni componenti dei Muculords fanno parte dei Crydom. Ci abbiamo il CD pronto qua, che è sì. Taking Measures. E uscito nel 2011. Che ci ascoltiamo? La seconda. Quindi Runway. We'll be right back. E quindi ci siamo ascoltati la seconda traccia da Taking Measures, disco dei Crydom del 2011, questa era Runway. E ci abbiamo già pronto qualcos'altro? Beh, ci spostiamo in Sardegna, appunto parlavamo prima di Franz e le sorelle Pestilenza che ha fatto questo featuring con i Mucolors. E il pezzo è My Life is a Menstruation. Donne, tutte donne. E quindi niente, queste erano le sorelle Pestilenza, che ormai non suonano più purtroppo, ovviamente un gruppo defunto, non defunto. Potevamo passare un gruppo in vita, non li passiamo, no. Solo i Mefitica, però loro sono negro, quindi mezzi morti, mezzi zombie. E quindi appunto un altro gruppo defunto, i Giustizia Mala. Ok, però pronunciato bene, sempre dalla Sardegna. Allora, visto che siamo entrati un po' nell'angolo delle voci femminili, volevo sapere un po' come ti senti tu a suonare in questo mondo prettamente maschile, no? Ma io in verità mi sento uomo, quindi non ho problemi di inferiorità. Assolutamente, però no. Cioè, noti magari nel, che ne so, andando a suonare nei posti, che magari altri chitarristi ti guardano per vedere se suoni meglio di loro, sai, queste sfide un po'. Fino ad ora non mi è mai capitato. No, c'ho esperienza insomma di ragazze che suonano nei gruppi, c'è sempre questa cosa di no, perché l'uomo suona meglio. Sono convinzioni sbagliate. Eh beh. E quindi, proprio per sfatare le convinzioni sbagliate che ci andiamo ad ascoltare adesso, i Giustizia Mala, però qui c'è una voce solo femminile, il resto sono uomini. Sattivi, perfetto. Free! Quindi ripetiamo che ci siamo ascoltati sempre dalla Sardegna. Giustizia mala. Una figata in lingua, insomma, prettamente sarda. Sì. Abbiamo qualcos'altro pronto? Nord Italia. Izzo, cantante donna, componenti anche maschili. Con Sara, appunto, ci siamo conosciute telematicamente, quindi ancora purtroppo non la conosco di persona, ma mi piacciono le sue idee e quindi ritengo giusto supportare la loro musica. E quindi tutti i pezzi, insomma, che ha scelto dall'underground, contatti diretti, gruppi che hai visto dal vivo che t'hanno colpito. Comunque io quando trovo un gruppo che mi piace, poi cerco sempre di approfondire, magari si può stare una bella amicizia, insomma è bello, cioè. Beh, stabilire rapporti, creare connessioni, certo. Sempre un'altra proposta dei Mefitica, sono i Ruidosa Inmundicia, gruppo apparentemente austriaco da Vienna, però il mistero rimane, non sappiamo se loro cantano in spagnolo perché gli piace lo spagnolo o se sono spagnoli. Vi lasciamo nel mistero, magari ci aiutate voi. 0649 1750, fateci sapere. Io penso che lo spagnolo è fashion, fa come... fashion, sì. Fa più hardcore. Cantare in tedesco hardcore, meglio spagnolo. E quindi un'altra voce femminile, Ruidosa Inmundicia, eccoli. Yeah. No, vabbè, nel frattempo mi sono un po' informato. Sono di Vienna, sono basati a Vienna, però dovrebbero essere, cioè ci sono dei gruppi, i componenti, insomma, dei Ruidosa Immondizia sono cileni. Tutto torna, quindi non è fashion. E con i miei fitica, visto che sono necro hardcore, continuiamo nella tradizione di passare gruppi defunti. Non sia mai, eh? Chi ci abbiamo? Tutte donne, Putrefied Beauty. Il pezzo è Hot for Blood, Death Metal. Vai. Questi erano i Putrefied Beauty. Visto che sono in rarità con i Putrefied Beauty, si sono spostati sul death metal sanguigno. Però già sotto ascoltiamo i Dr. Gore, gruppo che ogni tanto passiamo da queste parti e che abbiamo visto recentemente, almeno personalmente, in quel del Forte Prenestino all'Interiora Fest. Hanno veramente spaccato i Dr. Gore. A parte che è stata una bella lotta, perché il, come si dice, il bill della serata era veramente degno di nota e hanno spaccato tutti. E questo è il loro, del loro rigor mortis del 2008. Ops, del 2008. Ci riascoltiamo da capo, Human End. E visto che stavamo ricordando la serata al Forte, l'Interiore Fest, che ha visto presenti sul palco Dr. Gore ed anche un altro gruppo caro da queste parti, che sono gli Itsubo, e quindi Pamela ha scelto dal loro ultimo lavoro Con Cognizione di Causa. Grande album. Che pezzo ha scelto Pamela? Come pensi così sarai. C'è un perché ha scelto questo pezzo? Chiacchierate tra me e Demo. Ricordiamo Demo, batterista degli Itsubo. Sì, perché io ero rimasta colpita da una frase e poi ho scoperto che il testo non l'aveva scritto Giorgioni, ma l'aveva scritto Demo. Ok. E quindi ci ascoltiamo la stessa traccia di da Con Cognizione di Causa, che è appunto Come Pensi, Così Sarai. E visto che questo pezzo è stato scelto proprio per il testo, lo andiamo un po' a leggere, visto che è forse difficilmente riconoscibile. Il fulcro il fulcro modale della vita è essere se stessi, unico ed indivisibile, parte della spirale universale, frammento energetico di un cosmo sconfinato, male e bene, complementi essenziali del tuo essere, unito al tutto dall'energia radiale, insita in ogni organismo vivente, ciclicamente avviata a nuova vita dalla morte. Leggi matematiche universali, regolatrici dello spazio, tu l'artefice, nessun capro espiatorio. Immutabili, imparziali, perpetue, scegli la via con l'esperienza. Nessun altro è responsabile per le tue azioni delle tue azioni. L'equilibrio vitale è nel presente, il passato è morto, il futuro inesistente. Avrai ciò che desideri, focalizzati. Come pensi, così sarai. Grandi testi, persone profonde. Testo, ricordiamolo, scritto da Demo, questo in particolare. E sensazioni veramente uniche ai concerti. Che è veramente difficile trovare un gruppo che trasmette cose così forti. Condivido appieno. E noi sfreggiamo pure i Dismember. Basta, sti gruppi death metal grind, famosi, basta. Grind. Basta gli svedesi, basta. Tutti svedesi. Che c'è pronto un pezzo svedese? Giappone, ok. Tutte donne. Flagitius idiosyncrasy in the dilapidation. Come, scusa? Flagitius idiosyncrasy in the dilapidation. Ok, avevo capito bene. Smudge è il nome del pezzo. Yeah. Eccoci. Direi che questo gruppo sono l'esempio che le donne possono rompere il culo musicalmente. Direi insomma. E ci abbiamo pronto un altro gruppo di Pischelle? Sì, l'ho scoperto tramite Pompeo. Chi è Pompeo? È l'amico di Chris dei Black Eyed Peas. Mind Ovation. Mind Ovation? Il pezzo si chiama Japan is Rotten. Quindi il Giappone è marcio. E niente, quindi com'era l'aggancio con il gruppo che stiamo passando? No. Tramite Pompeo. Ah, tramite Pompeo. Ti piacciono le donne che suonano? Faccio sentire un gruppo. Allora mi è passato loro. E poi nella distro dei Grippol Bastard, una foto, ho trovato il disco e l'ho comprato. Ok. E niente, quindi giusto appunto, noi passiamo un pezzo dei Placcaggi Hardcore, che è Mentalità, e... oh... su fratelli, un abbraccione. Quindi del loro ultimo lavoro, che è a Prodo, ci siamo ascoltati Mentalità. gruppo che ci sta assai simpatico, perché come emerso dalla chiacchierata che ci siamo fatti qui negli studi di Radio Onda Rossa, gruppo che suona e che va avanti senza bandiere, e quindi, come diceva il testo, punk hardcore oi, black metal. No, ci piace questa cosa di abbattere le barriere, di non canalizzarsi. In un genere preciso. Ma pure voi, insomma, da quello che ho potuto sentire, viaggiate un po' sia nella tradizione punk hardcore, però il marcio del death metal si può avvertire, insomma, non è che... non siete canalizzati, insomma, in un genere preciso. Ah, la mia idea era di non fare un gruppo identico agli altri. Non lo so se ci sono riuscita, perché faccio giudicare agli altri, però non lo so, magari sono le influenze che abbiamo che caratterizzano un gruppo e... Va bene, questo, insomma, non rimanere in un canale di genere. Sì, perché molto spesso vado ai concerti e sento gruppi uguali agli altri che non mi trasmettono niente, e quindi evito proprio di approfondire, perché... Cioè, senza nulla togliere, perché comunque... Cioè, la passione di suonare c'è per tutti, però è difficile per me, che io sono proprio cacacazzi... cerco i gruppi proprio particolari. No, cioè. Spesso, insomma, si rientra nell'archeologia musicale, insomma, e ti vedi gruppi con gli stessi suoni degli anni 80, cioè, sì. Stesse strutture, che va benissimo, poi. Ma sai com'è, su queste cose c'è sempre, purtroppo, perché così funziona, purtroppo per fortuna, questo è, diciamo, il dato di fatto, è che comunque qualcuno arriva prima a inventarsi dei suoni, a inventarsi delle ritmiche, a inventarsi comunque una variazione sul tema, perché poi alla fine le note sono sette e a voce c'ha quel tipo di estensione, quindi non è che ci vai. Però appunto la bellezza poi di queste cose è che ogni tanto qualcuno riesce, malgrado tutto, a creare un'alchimia poi che non sincera. Sarà sentita, sincera. O magari semplicemente va a ripescare pure nel passato, perché poi le cose si dimenticano, cambiano le generazioni e alla fine, certo, questo è. Però, insomma, lode a chi ricerca, continua a ricercare, continua a innovare, continua a appunto, come dice lei, a non essere soddisfatti da quello che c'è, insomma. E visto che stiamo proponendo, insomma, dei pezzi che i miei fitica hanno ricercato, Passiamo al crust punk. Questo è un altro frutto di una ricerca dei miei fitica. Che ci ascoltiamo? Yellow Bastard, due voci, maschile e femminile. Poi il resto tutti maschi. Yellow Bastard. Stockwell Terror. Vai. Moments after the fatal mistake by London police. Look down the train, that's the body of Jean-Charles de Menezes. Seven police bullets had been fired into the young Brazilian's head that July morning in 2005. He was an innocent man just sitting on a crowded train. Ecco, e questi erano gli Hello Bastards. E ci abbiamo pronta un'altra proposta, sempre dalla scaletta che hanno preparato i Mefitica. Oddio, non ti sento. I Noizer. I Noizer. Alcuni componenti dei Tsubo facevano parte di questo progetto. E il batterista Christian purtroppo non c'è più. Riposa in pace. Fino al cimitero, appunto, il pezzo. E questa è la settima traccia del disco dei Noizer. Vai. E questi erano i Noizer. E prima di salutarci ci abbiamo un'ultima proposta, sempre dai Mefitica. Che ci ascoltiamo? I Clover, gruppo marchigiano che ho scoperto per caso andando col furgone di Buffalo nelle Marche, in una loro data. Quindi tu non sei vegetariana, immagino. No, io lavoro in una norcineria. Ok, no. Quindi ero la migliore perfetto, per perfetto, il Buffalo. Esatto, Christmas. Che gli ha portato salami, cioè ti hanno messo nel furgone perché portavi salumi vari. No, Ciglio ha detto, ecco. Cioè fai la macellare, non ci hai detto un cazzo. No, non ce ne vogliono i vegani all'ascolto. I Clover sono un duo, chitarra, sì, e batteria. Ok. Però qui ci spostiamo più su sonorità stoner. Ci piacciono. E mischiano molto hardcore, cioè mischiano molti generi, è proprio per questo che mi sono piaciuti, perché sono particolari. E ce l'ascoltiamo, i Clover. questi erano i Clover, che diciamo qua a microfoni spenti sono stati ospitati al Macera Fest. Al Macera Fest. Di dove sono loro? Sempre marchigiani. Sempre marchigiani. Amore sconfinato per le Marche e l'Emilia Romagna. Mezzanotte 49, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questa è 25 o'clock. Ospiti in studio, i Mefitica. Che ringraziamo di esserci venuti a trovare. E andiamo a salutare appunto i Mefitica. E ci prepariamo per chiudere la trasmissione, quindi bella Mefitica, grazie di tutto. Grazie a voi, è stato un piacere. Quando volete, è casa vostra, insomma. E noi salutiamo i Mefitica, sempre da un pezzo dalla triade sotterranea. E questo è Sangue di Latte. Questa era Sangue di Latte. Dall'ultimo demo della triade sotterranea, Mefitica. Volevamo passare i saluti, Mefitica? Sì, passiamo ai saluti. Allora, salutiamo... No, la prima, la nonna. No. Ah. La nonna di Gianluca, pa, mo quando passa il microfono a Gianluca la saluta. Vabbè, innanzitutto vogliamo salutare tutti quelli che hanno partecipato ai cori della demo: Alessio, Tiziana, Nervo, Bob e il nostro fonico amico Alessandro Polini. E vabbè, tutti gli amici, amiche dei Carpinero, il piccolo grande Lorenzo con la sua sorellina Giorgia, Desiree, mio fratello, Radio Officina occupata, supportiamo Radio Officina occupata. A voglia, Luciano, dei Buffalo Grills. Salutiamo anche noi la Radio Officina. E vabbè, dovremmo fare un giorno, caro professore, un bel ponte con Radio Officina, magari ospitandoli qua in studio. È una cosa che ci interesserebbe, no? Quindi noi l'invito lo lanciamo qua dai microfoni di Radio Onda Rossa. Veniteci a trovare, poi insomma ci sentiamo, ci organizziamo. quindi supporto totale. E quindi ci sono un po' di appuntamenti da ricordare, professore. No, eccolo qua, è arrivato più o meno. Però bisogna andare a cercare. Pronto? Ci sei? Sì, sì, ci sei. Non mi risento. Ci sei, ci sei. E bisogna andare a cercare dove leggere le cose giuste. Forse qua. Quindi, prossime presentazioni di Scarceranda a dicembre. Quindi, per ora. Iniziamo subito con venerdì, lucernario occupato alla Sapienza. Ci abbiamo pure lo spottino, guarda, ce la facciamo a caricarlo? Ce l'abbiamo pronto? Sì, dovrebbe stare, vai, lo basta cerco che subito. Lo vai a cercare, sì, così sì, sì, intanto mandiamo lo spottino del lucernario occupato. Ma noi andiamo avanti, perché già il giorno dopo, cioè sabato 14 dicembre, tutte iniziative ovviamente che si faranno in serata, insomma verso le 21, orario indicativo, ma comunque mano a mano andate a verificare e ve le diremo. 14 appunto, che è sabato, Alexis occupato, sempre una cena appunto con presentazione di Scarceranda. Poi il 18, mercoledì prossimo, avevamo già annunciato in precedenza, Forte Prenestino, cena di Scarceranda, quella proprio formale che ci sta tutti i mesi, tutti gli ultimi mercoledì del mese. In questo caso è anticipato il 18, perché l'ultimo mercoledì sarebbe Natale e c'è stata tutta questa così sotterranea discussione e dibattito circa il fatto di poter fare la cena di Scarceranda nel giorno dei festeggiamenti del nostro Signore. Del nostro Signore, loro Signore. E, vabbè, insomma, comunque alla fine la facciamo il 18. Chissà che quest'altro anno invece non ci vediamo magari proprio al Forte per fare la cena di Scarceranda sotto le feste. Il 21, 100 celle aperte, cena, e ci dovrebbe essere tutto a posto. Continuando, il 23, Teatro Valle, diciamo il banchetto della radio presenterà pure la Scarceranda, ma sarà un'iniziativa con la presentazione di due libri essenzialmente, e con vari personaggi, con Elio Germano, insomma. Arvalle il 23. Il 27, Macchia Rossa Magliana, confermato. Il 28 di dicembre, Nido di Vespe, quindi praticamente tutte le sere veniamo praticamente a casa vostra, più o meno girandoci tutti i quartieri di Roma. 28 dicembre, Nido di Vespe al Quadraro, ancora una cena per Scarceranda. 28 a Napoli, 28 a Napoli è però ancora da verificare questa cosa qui. E il 29 all'Ipo di Maruno, l'Ipo di Marino. Quindi queste qui sono tutte le sere e le cene che andremo a fare in giro, appunto, per presentare la nuova agenda 2014 e l'annesso quaderno. Dicevamo in precedenza, non oggi, insomma, comunque, come diciamo tutti i redattori e redattrici di Onda Rossa, Scarceranda, se voi acquistate una copia entra in carcere, alle volte anche in più, è proprio il motivo per cui facciamo tutte queste cene in giro, oltre che per presentare la Scarceranda, pure per finanziare appunto il progetto di Scarceranda, che entri il più possibile in carcere, oltre ad avercelo appunto dentro casa. Noi personalmente ci facciamo le scalette, io e il Fantasma, da mandare in radio, insomma, così, tanto per svelare un trucchetto. Dunque, ce l'abbiamo pronto lo spottino per venerdì? Ce l'avevo pronto lo spottino, no, mi era venuto in mente una piccola anticipazione, sì, che ancora non è uscito ufficialmente, però ci sarà. Per il nostro fagiolino ci sarà una cena benefit all'Ateneo Occupato. E quindi data ancora incerta, no? Giovedì 19 dicembre. Giovedì 19, ok. E ci sarà un personaggio etereo ed ectoplasmico a mettere i dischi. Vabbè, insomma, ai voi. Stendiamo un velo, non pietoso, ma un velo, perché tanto appunto ce l'ha il velo. Ce l'ho il velo.

see drugs and riding spot with hot wind and suck. The mission to get all of the above in a limited amount of time. I can do this and it's done. Like that, we're on our way. Be it acid on the tongue, cocaine in your brain, or some weed that hits your lungs like a runaway train. Hell yeah, from DMT to MDMA. Got all this shit and more, so till dawn we're okay. But anyway, fuck up mind every time. Get in, get a drink, and lose the minds. All eyes on the dime that makes your dick wanna grind. Know you got a good buzz going, cause everything is glowing. Skirt so short, her ass is showing, and she's looking so you know, and you can get it tonight. But there's so much around, let's take your time, do it right. As you keep getting higher, life looks like they're on fire. Soon all that's left of you is your most primal desire. Ass clapping, dick sucking, lock the door to the bathroom, quick fucking, find a whore and it can happen. But it's nothing, cause you're drunk and they'll be blacking out before you even get a chance to think about what you're doing. Needed to make me delete it, shake it, can't take it, must break it, break it off there when I say it. I want it, I need it, needed to make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I say it. Yes! I want it, I need it to make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I say it. Yes! Ci viene in mente una presenza che di tanto in tanto qua aleggia a 25 o'clock, ma forse uno dei posti dove c'è di meno, tutto sommato, dato il suo presenzialismo. L'esatto punto di incontro tra 25 o'clock e niente da vendere. La base presa come sample è quella di Interstellar Overdrive. L'hip hop sopra è quello dei Death Grips. Noi ce ne andiamo così, quindi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Zara. It on me like my body's made to fit when they're lit. You got the ones on the grill or between their hips. Un altro viaggio questa notte. I really don't give a shit, long as it's somewhere. And they promise not to dare. We could do this like an orgy in the bowels of air. Whatever, Lucy's hell on me and her pussy don't smell. Where's it at? To make me delete it, shake it, can't take it, must break it off there when I say it. Yes! I want it, I need it to make me delete it, shake it, can't take it, must break it off. Dicevamo, andiamo a salutare tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato fino a questo momento. I want it, I need it to make me delete. Questa sera it must break it off there when I say it. Yes. Abbiamo ulteriormente allargato la redazione della radio, come ci piace fare. E andiamo a salutare tutte e tutti coloro che invece ci preme di più, cioè coloro che sono costretti e costrette a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE. Saluto più importante per i nostri compagni e le nostre compagne costrette al carcere perché condannati per i processi di Genova 2001 a tanti e tanti anni di carcere. Causa il reato di devastazione e saccheggio, reato che comporta delle pene più grosse. Di chi ha fatto, ad esempio, Where's it at? 'Cause I want it like man. Got the drugs but need a hot one that'll make me go damn. was the most banging guts that I ever have smashed. If you got frode fiscale, così ad esempio. Semplicemente magari perché si è fregato o ha rubato una bottiglietta dentro un supermercato in un giorno in cui di estate di 21 luglio in cui di acqua non ce n'era, ma c'erano tanti lacrimogeni. Marina Cugnaschi, presso la seconda casa circondariale di reclusione di Milano, scrivetegli, abbollate, via Cristina Belgioioso 120 20 157 Milano. Fagiolino Alberto Funaro, scrivetegli, presso la seconda casa circondariale Capanne, via Pievaiola 252 00132 Perugia. Jimmy Francesco Pugliesi, scrivetegli, casa circondariale di Roma Re Bibbia, G12 cella 12 piano 2 sezione A nuovo complesso, via Raffaele Maglietti 70 00156 Roma. Luca Finotti, presso la seconda casa circondariale di Trento, via Beccaria 13, località Spini di Gradolo 38014 Gradolo Trento. Abbiamo detto le scarcerande, vi diamo appuntamento pure per il 31, che ormai è in fase di conclusione, definizione ultima. Quindi il 31 mattina tutte e tutti sotto Re Bibbia. Per la lenticchiata propiziatoria e il giro per stare vicini appunto nell'ultimo dell'anno ai detenuti e alle detenute, con il giro che facciamo appunto intorno al carcere di Re Bibbia fino al femminile. Con la musica, con i suoni, con le nostre voci e la nostra gioia che deve in qualche maniera travalicare le mura del carcere, in questo caso quello di Re Bibbia, e unirsi alla rabbia invece di chi sta dentro in un solo urlo, un solo grido, una sola voce di libertà. E poi la sera invece il 31 ad Acrobax, dicevamo in via di completa definizione il programma della serata, ci saranno i Wojaja, una band molto interessante che suona un po' di tutto quello che gli capita sotto mano, gli oggetti più disparati, e poi i vari DJ, le varie sale di radio, dei DJ di Radio Onda Rossa, che detta così pare, insomma, non suona manco bene, de noi altri. Bella a tutti e a tutte, noi ce ne andiamo così sotto la luna comunista, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Zara, rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa. dreams, I'll share our dreams under a communist.